DSC, per chi rimane qui e qui. Quartieri Uniti Ignobili, Quartieri Uniti Ignobili, yo. Dinanzi a me c'è lo scuro incombeggia, che stringo tra le mani il senso della realtà. Fra, sono qui, è un pensiero poco strano, aver paura di perdere le persone che più amo. La vita è molto fragile e questo lo si sa, che quando invece accade non ci credi per pietà. Preghi il Dio, beh, non serve niente, è solo un mezzo di convinzione tra la gente. Ma nulla, questo servirà, tanto meno una preghiera, sai, ti riderà una persona importante che amavi, che hai perso. Non vivrei, ascoltami il verso, la pioggia cade, scroscia, un giorno butto via. Sono Style City, ti prego, segui la mia scia. E nasce una tuggiosa tempo che c'è fuori giù. Adesso qui con me, magari il giorno non più. Magari un incubo, oppure brutto sogno, che quando invece sveglio sei solo un bel ricordo. Nel cuore permanente, nella mente, tutto ti ricorda a tal punto di morire. Ti rendi conto che senza lei devi sparire, tra luce bianca candida che c'è quassù. Adesso qui con me, magari il giorno non più. Magari il giorno non più. Con te o senza di te, il contrario uguale è più difficile per chi rimane. Con te, senza di te, o senza di te, il contrario uguale è più difficile per chi rimane. Si scrive sulla morte, già si sente il suo rumore, mentre ride le fa conti su chi vive e decide poi chi muore. La falce come Biro, stride sui nomi in calce di coloro che al suo arrivo troveranno eterna pace. Per sdegno, per sorte o per una malattia, quel che so, che il disegno della morte parla di tecnologia. Tecnologica quest'era, ma la gente schiatta muore, c'è chi lotta e spera in cure per il cancro di tumore. Aiutiamo la ricerca, fra dicono in TV, però poi non c'è scoperta né per SLA ed HIV. Ma i doc intanto parlano, bro, dicono che studiano, però sempre più casse fra le masse che si chiudono. E ancora adesso ci penso e non ci dormo, quando dietro a un muro spesso ci han chiuso la bara di mio nonno in un eterno sonno. E dal ricordo mi consumo, non lo scordo come è morto, consumato lui dal fumo. E forse sarà uguale la mia fine, finite le mie corse, varcato ormai il confine, esaurite le risorse, puntuale ferirò e dal doc esclamare sentirò che per me più niente si può fare. Allora capirò che il senso per soffrire, piangere, sperare rimarrà solo per chi vive fra con te, solo chi rimane qua. Senza di te, il contrario uguale è più difficile per chi rimane. Con te, senza di te, senza di il contrario uguale è più difficile per chi rimane. È più difficile per chi rimane qui. Rimane.